Sì, appena appena ritardato, non di poco no, meno 15 anni. Io usavo anche la voce da Falcone, facevo quello lì una volta. Make it. mai metti. Ci siamo? Sì, avanti. La salute. A voi, questo è molto meglio. Solo questo, sai che c'è un problema il tanner? Che quando sono troppo vicini devo chiudere le feghe, se no va in saturazione. Il tanner, scusa, il pace. E come è? Ma chi ha limitato le feghe? Questo, cioè se ti tengo tutto aperto le feghe non riesco a sentirti, vai saturazione, siamo troppo vicini. Mentre col Multicom puoi avere il burro sotto gas a 300 watt e non li vai nuda, c'ha dei fili allucinanti. Ah, l'eccezione, ho capito. Vabbè, sta pompando l'ordine. Sono quasi 150, figurati. Lo sto provando, perché ho messo il vaso a mezzanotte, stasera. 25 euro mi è costato a casa. E ci ho piazzato. E quindi lo sto provando. Cosa ne fanno? 150, i figura di valore, per quello sta saturando qua. Poi si avvicina, è attaccato, si sente? Ma se fa una prova, adesso riapro le fregne, devo vedere se saturi ancora, prova se fa niente. Lì ci sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po'. No, adesso quanti ne saranno? Io ci sono, dell'apparecchio. 10? Io a 10, sì. Che cos'è l'apparato, ricordami? Il 2009. Il 2009? Ehi, il 2009, sì. E quello è un bel giocattolino. Senti. Magari hai visto? Non lo so. Mi spavento perché mi scappa la visa. Ma te si sente? La vecchiaia col cartuccio. Mamma, quando si voleva fare tutti quegli effetti musicali, a te quello di Bilanciolo, quello di Alghero, che attaccava il mix e muoveva tutti questi musichette. No, non è quello. Quello che faceva le imitazioni era cosa? Era. Ma Giovanni mi sembra si chiamava. Faceva il batterista dei Sovenero. Che stava a baracchino, tanto tempo fa, no? Giovanni si faceva la voce all'ora, uno di più non ne ha fatto, ma voce all'ora vera e propria, non voce da maschio, faceva proprio la donna. Lo so, anche Luca era specialista, una volta lui si è appigliato in giro. E io lo facevo con coso, con quel microfono che vendevano nel giornale, facevo la voce da maschio, mi prendevo per pigliare la precisa, uguale. E lavorare appuntamenti, figurati. Prima c'era molta più gente nei tempi vostri, io sono entrato da Leandro Visaro 6-7 anni, aspetta quando c'è la concessione, a Mileggere, ma come la metto, forse nel 2004 ci sarò io, 8 anni ci sarò là. E prima parliamo di 15-20 anni fa, avevamo gli enti e c'era a scherzare tutti i giorni, adesso è morturio. Adesso è morturio, sì, è allo grido. Si sta smogando, senti, c'ha le l'ugola che gli fa male, perché non rispondo. Dimmi una cosa, ma il capo non ce l'hai più? Sì che ce l'ho. Ma è tutto a posto, ho rotto, l'ho rovinato? No, ce l'ho qua, ti serve, lo vuoi? No, non me ne faccio niente, perché bene non lo sa. Se lo vuoi non c'è problema, c'è qui. C'è a casa, quando vuoi. Ma tu avevi il 680 o il 140? Il 680 c'ho. Se sembra qualche cosa, la taglia non se lo sta vedendo qua. La taglia si sta vedendo tutto. MC60, 440, un po' di roba. Solo che è un po' caruccio. Già lo so. Dunque non so se ce l'abbia venduto, mi sa di sì pure lui. Lui 300 euro, 140. No, Luca si è venduto al minimo 300, che voleva il suo 140. Ma l'ha venduto? Non lo so, penso di sì. Ma il 140 niente da dire, però io dico, aggiungi qualcosina di più, se uno si deve comprare un apparato un po' più sofisticato ti prende 440, aggiungi 100 non so su internet. Qua c'è insomma poco prezzo. È pieno. Però qua mi giro. E come le case? Tu vuoi comprare una casa? Vai su internet e dammi quanto ne vuoi adesso. Qui vai, è un casino a trovare, adesso come siamo come gli spagnoli. Prendi due e paghi uno. Poi non riesce a vendere nulla, noi avevamo una campagna, mio padre è già un po' di anni cercando di vendirla, niente. Oggi ieri anzi un amico lo stesso c'ha una bella campagna vicina con la casa, tutto quanto, sembrava tutto fatto, poi invece la banca non ha niente da vedere. Non ti danno neanche i soldi le banche adesso. Lo so, non dirà a me. Siamo anche così in mezzo ai casini. Sto vendendo la campagna e non riesco a venderla perché non ci sono soldi. Il discorso è quello. Voglio dire, e boh, non vogliamo altro. Soldi da banca non ti va a dire e quindi non puoi pigliare nulla. Ma dove c'è la campagna? In via del Pollatore, se dove c'è Bilici Racing in pratica. Bisogna fare il passaggio, c'è il passaggio per passare la macchina, sono 40 metri nemmeno. E ci vogliono 4.000 euro, non è che ci vogliono così tanto a fare il passaggio e tutti vogliono vogliono arrivare con la macchina direttamente nella casetta, capito? E nel carrello. Dov'è il via del Portotorres? Via. Che casetta è? Dove c'è Bilici Racing, c'è un paese dove c'è Bilici. Sì, ancora perché c'è Bilici, non ha chiuso. No, già è viva ancora. Ancora si trova lui, il padre? Beh, uno penso di sì. Che o chi era morto il figlio, uno di quella famiglia era morto. Ehi, il figlio era morto. Ehi, vabbè, purtroppo. Non sapevo se la vendita è abbastanza buona la zona, non riesce a venderla, ma è molto grande. 2.300 metri quadri di terreno e sono 70 metri quadri di appartamento. Però non è finito, capito? È voluto in teoria. E non riesco a vendere per niente, perché ci vogliono il passaggio. A culo vogliono proprio, capito? Abbiamo fatto la cosa, la tribunale, ci vogliono 4.000 euro per pigliare 40 metri di terreno, cioè, in lineatemi. Poi nel 4 di larghezza e basta. E lo vedi tu quando devi entrare? Dove è proprio se entro io. C'è il terreno e entro lì. Molto la strada. 60. Sei vero? Ehi. Possiamo lasciare la casa da cosa? Rudere, rustica o da sistemare? Da sistemare, te la faccio vedere, vieni giù e te la guardi. No, per me, ma molte volte le chiedono, se è così vicino, cazzo, già provo a chiedere in giro, perché, ma la casa deve un po', se è stata metti male, ma sono due livelli o sono livello unico? Livello unico. Ma cosa vuol dire da finire? Ci vogliono gli infissi tutto quanto o è chiusa? No, ci vuole, in pratica, entra la cala all'interno, un pezzo perché in pratica due pezzi sono già intonacati col pavimento, manca la parte dietro, poi ci vogliono le porte ruote che ha cercato di aprirla la casa, e quindi non sai come dire il produttore, se no lascia una casa abbandonata un po' di tempo e più ti aprono le porte. Sappa, ma intanto io dico le reti sta a posto? La luce c'è a posto, ma c'è anche il posto? No, quello bisogna che lo faccia. E di là cosa? Ci sono alberi? E parecchi, di frutta. E una volta l'altro conto ha fatto la pianta di frutta mio padre. E non l'hai messa su subito a vedere se aveva qualcuno? No, non l'ho messa, la verità. Allora, un amico mio ne sta vedendo una nella cosa. Come si chiama? Nella Budi all'inizio, dove c'è poi quella discesa dopo il distributore, la tabella sono 60.000 euro e 2.300 metri con una casa di 45 metri qua, però la casa è a posto, finita. La tanto quando la stai dando tu, ma considerando che la tua è più vicina, può essere un prezzo ragionevole il tuo. Ma tutto per il passaggio per arrivare in macchina, il discorso è quello, capito? C'è il coso al tribunale per poter fare il passaggio, perché avevamo vinto la causa. Basta solamente comprare quel pezzettino di terreno da quel tipo lì, per dire che vuole, non mi ricordo se 3.000 euro, 4.000 euro, quelli che sono, non è che sia molto. Ma perché la servitù non esiste di passaggio? L'abbiamo fatto al servitù di passaggio, hai capito? Ha fatto la giudice di pace, abbiamo vinto e babbo purtroppo è molto prima, hai capito? E quindi mi sono trovato inculato. Mi ha buttato giù degli altri che sono di rovi piccato ad un fico, con una ruspa, e gli fa il passaggio. E, mi sembra sono 50-60 metri di lineale per 4 di larghezza. Ma sai cosa fa? Piglia una ruspa, un paio di giornate di lavoro ti fa tutto. Ma la gente vuole la roba sopra il culo, non hai capito qua, Sassari, che cosa è quella? Dimmi una cosa, ma l'antenna ti sei cambiato tu? No, sempre la mia 27 anni ciò. Poi mi sono costruito la direttiva sotto con l'ottore già l'hai vista. Ma la direttiva per che banda? È la 27. Non ci ho fatto caso, ma quanti elementi? 2 elementi, ho messo 2 radiali di cosa? Di Mantova 5 e dietro ci ho messo 2 radiali di Grand Play, che sono più lunghi, e mi sono fatto una direttiva di elementi. Funziona la cordata? Certo se funziona, ascolto quando gira il nodo Carolina, chiara chiara. Stavo ascoltando l'altro giorno, ma arrivavano fortissimo, però non riuscivo a corrispondere. Ho parlato con l'Ucraina, però proprio loro di Carolina che ascoltavano, arrivavano quasi Santiago 9, qua, fortissimi, però non mi sentivano a me, probabilmente erano in orizzontale, non lo so. E io ce l'ho la direttiva a 4 elementi, mi sembra che sia, me l'avrò, sono comprata, l'avevo ordinata, l'avevo presa da Grassi, mi sembra l'avevo presa 3 anni fa. E il rotolo se l'ha rotto, adesso lo devo montare nuovo, ma tu il rotolo con la GBC ti hai messo? Motore di quelli di cosa, ma sono motore di quelli di parabola che vanno bene lo stesso, se la abbia il culo, visto funziona bene. Quindi te l'hai orientata sulla direzione, un altro motore ti hai messo, di quelli a pistone? A pistone no, un motore di direttiva normale, della del sistema pensato, fa nord, sud e ovest, cioè fa est, sud e ovest, boh, basta. Diciamo 180 gradi di frontale ti fa e basta. Esatto. Vabbè, intanto non costa molto, mi rotto una 60 di euro, costa quello che ho preso io, e ti fa 360 gradi, più ti danno il posizionatore, già non so se l'hai visto quello che c'è da Tonino. Già l'ho visto infatti. Ah, già va bene, non mi la fute a me. Lui lo usa per ricezione, non per trasmissione. Tanto per trasmissione non è che lo fai. Poi non c'è niente. Per parlare con loro non ce la fai a entrare. Quindi aspetta che fatti la finestra, se no mi entra qua dentro. Già comunque va bene lo stesso, non c'è problema. Ne faccio di ex, se ne la fai. Lo so. No, quelli lì chissà che potenze usano, io l'anno scorso, 2 anni fa avevo collegato la Patagonia, proprio la parte bassa dell'America del Sud, erano non so a quanti chilometri dal un faro, con 5.100 watt stava uscendo questo guardiano del faro, c'era un faro di lì della Patagonia, ed è al polo sud non so a quanti chilometri, era proprio la parte bassa della cosa, stava uscendo in direttiva con 5.100 watt, mi ascoltava, siamo stati più di un'ora parlando, ha girato l'antenna verso le Europa e siamo stati più di un'ora parlando, lui stava uscendo con 5.100 watt e io la potenza mia riuscivo a sentire, cioè lui mi ascoltava. Meglio così non sei contento, ma manco bombe. Ma non so dove è aperto, io lo sai, per l'est, sento Mosca, l'Ucraina, fa lo scala, è una cosa micidiale qua. Poi quando ho girato la direttiva sentivo la canzone del sud chiamando e poi di Brasile, però la faccia di ex non mi fregava niente la verità e basta, no? Uso la 58 di teatro. Sì, no, in Brasile già ci ho parlato diverse volte, con gli Stati Uniti mai, e arrivavano fortissimi, non riesco a capire, forse l'onda sono in una direzione funziona, cioè loro riescono a farsi sentire, però non riescono ad ascoltare a noi, perché il segnale era fortissimo, arrivavano a Santiago 9 a Giumari, se invece erano omicidiali, proprio il nord Carolina, e dell'Ucraina mi ha ascoltato benissimo, in FM però eravamo. già va bene, va. Ok, adesso c'è un attimino che vado a mangiare, ci andiamo al limite dopo, sì sì sì. Non so se ci sono, comunque, buona carica, buon tutto santo, noi già ci sentiamo. Ciao, dopo al limite, sì sì, sì sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.